Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Con il mese di aprile, non è un pesce purtroppo, anzi forse per fortuna, entrano in vigore le nuove regole per fare ricorso quando si riceve un accertamento tributario. L'obiettivo è quello di snellire il sistema rallentato dai tanti giudizi presentati alle commissioni tributarie incaricate di decidere, e per alleggerirlo diventa obbligatorio un tentativo intermedio di mediazione, e cioè il contribuente, presentando il reclamo, potrà formulare una proposta di mediazione che potrà essere accettata oppure sostituita con una controproposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove norme si applicano solo agli atti di valore inferiore o uguale ai 20.000 euro, un nuovo procedimento che potrà tagliare almeno 4 cause di 10 tra quelle che ogni anno, forse un po' di più, arrivano davanti alle commissioni tributarie provinciali. Salva Danaio oggi spiega tutte le novità, risponde alle domande degli ascoltatori, prendendo spunto anche oggi la guida pratica che esce con il Sole 24 Ore. Giovanni Parente, ti ho già annunciato nel corso del giornale radio, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. E abbiamo naturalmente anche una nostra esperta, la dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista, esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Eccoci qua allora, 800 24 00 24, il numero verde come sempre che permette di interagire con la nostra trasmissione e i nostri ascoltatori, che potranno così chiamarci in diretta. In alternativa ci potete scrivere se avete una lite fiscale appunto e avete già effettuato un ricorso presso la commissione tributaria della vostra provincia. Raccontateci un po' intanto com'è andata, noi vi spiegheremo invece quali sono le regole nuove, anche se naturalmente, Giovanni, diciamolo subito, le regole nuove partono chiaramente adesso con il 1 aprile, cioè con il 2, perché ieri era domenica, per cui per tutto il pregresso, se già i procedimenti sono stati avviati, valgono le vecchie regole. Le nuove regole si applicano soltanto agli atti ricevuti da oggi dal contribuente, da oggi in avanti. Sempre stiamo parlando dentro i 20.000 euro, e chissà che non abbiamo fatto bingo oggi e beccato già qualcuno che stamattina ha ricevuto qualche cosa nella cassetta della posta. Speriamo di no, ma insomma, prevenire è sempre meglio che curare. Qualora dovesse verificarsi un'eventualità del genere, come ci dobbiamo comportare? Come vi dicevo, ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche su Facebook, noi siamo all'indirizzo, anzi il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Stamattina merita qualche cenno, lo facciamo sempre, ma merita un approfondimento anche la borsa. Questa mattina la settimana parte male, già la scorsa non è che sia andata molto bene, la borsa si è risollevata sul finale quando sono arrivate delle indicazioni dal vertice dell'Eurogruppo di Copenaghen, nel corso del quale sono state ribadite le disponibilità, ma non ampliate, quindi solo ribadite le disponibilità appunto dei governi dell'Eurozona a mantenere invariata la dotazione finanziaria del Fondo Salva Stati a 500 miliardi di euro fino ad un massimo di 800 miliardi, probabilmente per fronteggiare eventuali crisi future. Forse l'Eurozona le teme, sarebbe necessaria una dotazione più ampia, e allora il mercato, eccolo che è scontento questa mattina. C'è un quadro contrastato tra Parigi, Francoforte e Londra, che vanno al di qua e al di là della parità. Stamattina Parigi adesso scende dello 0,24%, Francoforte positiva più 0,35%, listino tedesco è arrivato a guadagnare oltre un punto, Londra più 0,02%, Milano ha perso anche un punto e mezzo, adesso cede l'1,30%, scendono tutte le banche a Milano di nuovo. E sono di nuovo le popolari a flettere particolarmente. La Popolare di Milano perde il 4,60, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,24, nuovo calo di 3 punti per Unicredit, poi c'è anche Buzzi Unicem che perde oltre 3,5 punti. Fiat meno 2,90, su Fiat occhi puntanti, perché stasera dal Ministero dei Trasporti conosceremo il dato sulle matricolazioni in marzo. C'è già chi anticipa, e lo ha fatto una voce autorevole, l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, un tracollo del mercato del 40%. E chiaramente il titolo ne risente pesantemente. Anche Finmeccanica frena dopo il forte rialzo della scorsa settimana sulla scia della prospettata cessione di una bella fetta di Ansaldo Breda e Ansaldo STS ai giapponesi di Hitachi. Il titolo oggi perde il 2,46%. E meno 2 abbondanti anche per A2A, per Enel Green Power, per Intesa, per Mediobanca, per Impregilo, per il Banco Popolare. Chi più ne ha più ne metta. Va bene il settore del lusso oggi in Europa. Salvatore Ferragamo quasi più 3 punti. di Assori né più né 10, Pirelli in rialzo di un punto, Monte dei Paschi in recupero dello 0,8%. Una informazione di servizio prima di sentire la scheda sul tema di oggi. Oggi si tiene, lo ha comunicato Borsa Italiana, il primo Charitable Trading Day. In occasione di questa giornata le commissioni di negoziazione sui mercati azionari di Borsa Italiana e London Stock Exchange, pari ad almeno 500.000 euro, saranno donate in beneficenza. La somma raccolta verrà donata dalla fondazione del London Stock Exchange, quindi la borsa inglese che, come sapete, ha comprato anche quella italiana, per il finanziamento di progetti finalizzati al sostegno di giovani a rischio di disagio sociale in Italia, Regno Unito e Sri Lanka, le principali comunità in cui il gruppo, questa fondazione appunto, opera. Quindi sappiate a che fine vanno appunto le commissioni sulle negoziazioni che operate oggi. Lasciamo la borsa, andiamo invece al tema che abbiamo scelto per Salva Danaio. Parliamo della mediazione delle liti con il fisco. Sono tanti i ricorsi presentati in risposta agli accertamenti tributari, tanti quindi i cittadini che non trovano corrispondenza alle notifiche che, stando a quanto risulta al fisco, contestano una scorrettezza nel pagamento delle tasse. Di conseguenza, sono tanti, troppi i giudizi dinanzi alle commissioni tributarie incaricate di decidere. Per contribuire a snellire il funzionamento del sistema, sono state approvate lo scorso luglio nuove modalità per trovare un accordo. Il meccanismo e le motivazioni ricordano la conciliazione, introdotta proprio per ridurre la mole di cause civili e ridurre i tempi della macchina della giustizia. Le due procedure sono simili per molti aspetti, anche se per i reclami rivolti all'Agenzia delle Entrate non è prevista una figura di arbitro super partes analoga a quella del mediatore civile. Sarà insomma sempre l'agenzia a decidere, ma il contribuente, presentando il reclamo, potrà formulare una proposta di mediazione, che potrà essere accettata oppure sostituita con una controproposta. Non sarà quindi più consentito il ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale, nella speranza di indurre il contribuente a trovare un accordo preventivo con l'ufficio. Le norme si applicano a partire da questo mese di aprile e quindi interessano gli atti ricevuti a partire da oggi. Si riferiscono però solo agli atti di valore inferiore ai 20.000 euro. D'ora in poi è questa, insomma, la strada da percorrere per chi vuole presentare un ricorso. In alternativa, ci si può sempre adeguare alla contestazione del fisco, è la strada della cosiddetta acquiescenza, e ci saranno 2 mesi di tempo per pagare. E c'è sempre anche la possibilità di ottenere uno sconto sulla cifra da versare, rendendosi disponibili alla procedura di accertamento con adesione, che congela per 3 mesi gli effetti dell'avviso di accertamento. 800 24 00 24, il numero verde per prenotare le vostre telefonate, oppure scriveteci al 349 238 6666. Giovanni Parente, ma prima non si poteva mediare con il fisco un eventuale lite appunto con l'amministrazione fiscale? La novità, se non ho capito male, è che adesso un tentativo di mediazione diventa obbligatorio per le liti fiscali di un certo importo, naturalmente. Esattamente, questa che si chiama mediazione è in realtà una procedura obbligatoria per gli atti messi all'Agenzia delle Entrate se non superano la contestazione non supera i 20.000 euro di valore. Esisteva ed esiste ancora la procedura di accertamento con adesione, per dire una procedura attraverso cui si può tentare un accordo, ma prima della fase del ricorso, ed è una procedura assolutamente facoltativa per il contribuente, quindi può scegliere lui di ammettere in parte la violazione e di cercare un accordo su una a metà strada con l'ufficio. Certo, perché per chi tenta di mediare effettivamente è come dover riconoscere che si è comunque in qualche maniera colpevoli e responsabili di questa pendenza fiscale, no? Se il fisco ti attribuisce una qualche responsabilità, tu devi dire va bene, d'accordo, allora mediamo. In caso contrario, chi non vuole assolutamente mediare anche per un importo minimo, che cosa fa? E in questo anche se noi oggi dobbiamo parlare della mediazione, però l'alternativa qual è? Chi non vuole assolutamente mediare andava direttamente in commissione tributaria, cioè faceva ricorso per intero valore della cifra contestata. Attenzione, perché questa nuova procedura che si instaura oggi, cioè prevede un reclamo, vale a dire un pre-ricorso, detto in termini non tecnici ma tanto per farci capire ai nostri ascoltatori, in cui si porta a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate la volontà poi di dire vado in commissione tributaria. Nel pre-ricorso il contribuente può chiedere all'agenzia di cerchiamo di mediare, cerchiamo di trovare una soluzione a metà strada, oppure può non farlo completamente. Gli presenta questa sorta di distanza e poi dice ci vediamo in commissione tributaria. No, perché il tema è proprio quello, capire se il contribuente si ritiene assolutamente dalla parte della ragione, per quale motivo deve essere obbligato ad esperire anche il tentativo della mediazione. Infatti il tentativo di mediazione non è obbligatorio da questo punto di vista, può scegliere se presentarlo o meno all'interno del reclamo. Benissimo. Dottoressa Cerno, una domanda anche per lei. Dicevamo prima appunto che le nuove norme si applicano agli atti di valore inferiore o uguale, credo, ai 20.000 euro. Che tipo di liti di lite fiscale è quella che ha questo valore? Insomma, che cosa ti può contestare il fisco? Tutti gli atti ricevuti da oggi, quindi 2 aprile, sostanzialmente sono gli avvisi di accertamento, esecutivi e non esecutivi, quindi sostanzialmente avvisi di accertamento che contestano maggiori imposte sia dirette che indirette, ancora atti di contestazione e sanzioni, ancora avviso di liquidazione, quindi sostanzialmente avvisi che derivano da tassazioni separate, ancora i ruoli possono essere oggetto di reclamo, sempre se di importo non superiore a 20.000 euro, quindi sostanzialmente i cosiddetti avvisi bonari, quelli che derivano dalle liquidazioni formali e automatiche delle dichiarazioni dei redditi, non li chiamiamo avvisi ex articolo 36 bis e 36 ter, e ancora questo forse può interessare a molti ascoltatori, i rifiuti anche taciti, ovvero espressi da parte dell'ufficio in merito a istanze di rimborso di tributi, quindi sostanzialmente le istanze di rimborso IRAP o anche IVA, laddove l'Agenzia delle Entrate non ha risposto e questo silenzio si è protratto oltre il 2 aprile, in quel caso per poter avere diritto a questa restituzione occorrerà comunque fare questo reclamo. Quindi diciamo non deve esserci solamente come presupposto una contestazione da parte dell'amministrazione fiscale che magari dice tu per qualunque motivazione mi devi, non lo so, 5.000, 10.000 euro, devi regolarizzare la tua posizione, ma può essere anche un'iniziativa che per primo è contribuente a prendere anche senza un avviso di accertamento dall'agenzia, no, quello deve esserci sempre, Giovanni. No, quando tu presenti un'istanza di rimborso è una tua iniziativa che hai nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. È chiaro che nelle more, insomma, nell'attesa che ci sia una pronuncia e questa pronuncia non arriva, c'è un comportamento dall'altra parte e quindi di fatto si verifica una situazione per poter presentare il reclamo e poi la mediazione. Una cosa importante, Deborah, che Rosanna Acerno diceva prima, quando parlava di 36 bis e 36 ter, magari decriptiamolo, rendiamolo più semplice, sono le contestazioni sulle detrazioni fiscali. Molte volte il fisco ci controlla automaticamente e ci contesta di aver detratto una cifra eccessiva rispetto a quella che potevamo effettivamente detrarre, e quei tipi di contestazioni lì, sempre se non superano i 20.000 euro di importo completo, dovranno essere mediati da oggi in poi. Un'altra curiosità che mi viene, quando intraprende un percorso appunto che arriva poi alla mediazione con l'Agenzia delle Entrate, si parte chiaramente da una certa cifra ed è poi il contribuente che dà la sua disponibilità, quanto sarebbe disposto a versare per chiudere questa pendenza, Giovanni? Esatto, nell'istanza di reclamo, se tu dici voglio... Se il fisco ti dice mi devi 20.000 euro, io te ne do 1.000 punto, e l'Agenzia delle Entrate poi che cosa fa? L'inizia a trattare. Lì sì, si non inizia... è così banale. Non è così banale, ma si inizia a trattare. È chiaro che questa mediazione viene fatta sempre dall'Agenzia delle Entrate, anche se da un ufficio diverso da quello che ha emesso la contestazione. Quindi manca un soggetto terzo che effettivamente può ricondurre la parte pubblica, l'Agenzia delle Entrate, la parte privata, il contribuente, a trovare un accordo, e quindi con un processo di mediazione vero e proprio. Lì molto, molto spesso saranno le necessità di budget di un determinato ufficio, quindi se deve portare a casa 100.000 euro in quell'anno e mancano 10.000 euro, insomma quello diventerà un po' importante per capirlo, e quindi anche la scadenza temporale in cui avverrà la mediazione. Ecco. Dottoressa Cerno, una domanda per lei, poi dobbiamo fare già la nostra prima pausa. Voi professionisti, insomma, che speranze riponete in questo nuovo strumento, anche se più che per voi chiaramente il beneficio arriverà nell'ambito della giustizia tributaria, che sarà sicuramente alleggerita, no? Anche se magari bisognerà vedere se tutto questo si ripercuoterà sulle commissioni tributarie locali. Finora non è che abbiamo molte speranze, anzi ci troviamo soltanto a subire delle lamentele da parte dei contribuenti, perché vedono questa procedura nuova non viene salutata con molto favore, onestamente, soprattutto alla luce di una problematica importante, che è quella relativa alla mancanza di imparzialità cioè il fatto che è la stessa Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto, che poi dovrà decidere eventualmente se l'atto è infondato, ovvero se accogliere una proposta di mediazione, questo obiettivamente a molti contribuenti non sta piacendo questa situazione. Quindi obiettivamente gli effetti poi si vedranno solo dopo un certo periodo di tempo. Volevo solo brevissimamente precisare una cosa comunque, che con il reclamo sostanzialmente si chiede innanzitutto la nullità dell'atto, cioè perché si chiede una nullità che andrebbe chiesta comunque al giudice tributario. In un secondo momento ed eventualmente si può chiedere anche una proposta di mediazione, cioè quindi si chiede di accettare un abbassamento della contestazione, però ovviamente sulla base di presupposti e di motivi fondati, non a caso, insomma. Certamente. Si può chiedere questa proposta di mediazione. Benissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Come vi dicevamo, da oggi entrano in vigore le nuove regole per fare ricorso quando si riceve un accertamento tributario. La nuova regola è che intanto si avvia il nuovo meccanismo del reclamo, che a sua volta conterrà una proposta di mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che a sua volta potrà fare una controproposta o dire al contribuente: sì, va bene quello che tu mi proponi per chiudere la lite con me, mi sta bene, definiamola così. Ma insomma, sarà tutto così semplice? Ci sembra abbastanza improbabile. Noi stamattina cerchiamo di capire intanto quali sono le tipologie di pendenze con il fisco che avete, anche perché per esperire la mediazione, mi pare che Giovanni si dica così in gergo tecnico, si esperisce la mediazione, no? Sì, tentare la mediazione. Tentiamo, è più bello, è più chiaro per i nostri ascoltatori. E chiaramente bisogna avere in sospeso una lite fiscale che abbia un valore inferiore ai 20.000 euro. E allora noi stamattina ne stiamo discutendo con Giovanni Parente del Sole 24 Ore, Rosanna Cerno, dottore commercialista esperta di tematiche tributarie e fiscali per il Sole. Peraltro siete entrambi gli autori della guida di stamattina. Non abbiamo parlato, Giovanni, la guida di stamattina ha le stesse modalità delle altre, quindi un pool di esperti a disposizione dei lettori e anche degli ascoltatori di Radio 24? Sì, Deborah, permettimi di ricordare che fino alle 18 di oggi è possibile inviare un quesito all'indirizzo www.ilsole24ore.com/mediazione-reclamo. Potete chiedere tutto quello che avete bisogno di sapere sulla nuova procedura di reclamo mediazione e anche sulla procedura di chiusura delle vecchie liti, che oggi tra l'altro c'ha un giorno cruciale, l'ultimo giorno per poter chiudere le vecchie liti con il fisco. E tutto si è concentrato tutto oggi. La guida è in edicola, in più da domani sarà disponibile anche la guida online, che contiene in più rispetto alla guida cartacea anche tutti i facsimili di reclamo proposta di mediazione che i contribuenti potranno scaricare e di cui potranno servirsi se ne avessero bisogno. In più ricordo che le prime risposte alle domande arrivate oggi saranno pubblicate sul quotidiano di domani e poi saranno disponibili online a partire dai giorni successivi. Cominciamo con i nostri ascoltatori invece che chiamano all'800 24 00 24. Gino dalla provincia di Alessandria, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Buongiorno Gino, ci racconti tutto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Allora, il mio problema è questo. Io negli anni 90 ebbi a che fare col fisco, poi ci fu il condono, una dimezzata l'importo, poi non potendo pagare intervenne il tribunale perché andai a lavorare come sottodipendente. Col pignoramento del quinto stipendio evasi tutto il credito con l'ufficio delle imposte. In seguito non ebbi più niente a che vedere con l'ufficio delle imposte, però ho fatto fare la verifica e mi trovo 4.000 erotti euro di mora e di interessi su quello che aveva stabilito il tribunale. Come posso fare io per evadere questo credito nei confronti questo debito nei confronti? Grazie mille Gino. Allora, dottoressa Cerno, intanto se lui conosce già la cifra, è evidentemente una contestazione che gli è già stata mossa dall'Agenzia delle Entrate, forse non può avvalersi della nuova procedura della quale stiamo parlando questa mattina, o no? No, sicuramente no, perché ripeto, questa procedura interessa soltanto gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e ricevuti dal contribuente a partire dal 2 aprile, da adesso in poi. Se non capisco male, però l'ascoltatore si riferiva comunque a degli importi per cui è stato condannato, diciamo, in sede giudiziale, quindi mi sembra di capire che non sia l'ufficio che abbia erogato queste sanzioni e questi interessi, o sbaglio? Comunque c'è stata una condanna da parte del giudice. Lo abbiamo ancora in diretta, Gino? Gino, ci ha ascoltato? Sì, ci sono ancora. Allora, io quando sono andato a vedere l'Equitalia per vedere la mia posizione, perché mi erano arrivate tutte le cartelle precedenti, mi ero andato a fare un conteggio quando dovevo rendere tutto sempre all'Equitalia, mi sono trovato questi 4.000 rotti euro 5-6 mesi fa. Però non riesco a capire, perché se, mi sembra di aver letto anche qualche mese dietro un trafiletto sul Sole 24 Ore che non era, non so se questo vale anche per l'Equitalia, che non si possono fare aggiungere gli interessi sugli interessi e le more sulle more. Questo era un articolo, mi sembra, del 97, però non ho preciso di quale procedura civile o penale possa essere. Gino, intanto, vi ringrazio. Grazie a lei. Beh, intanto allora bisognerebbe identificare bene in che cosa chiede l'amministrazione fiscale in questi 4.000 euro effettivamente. Dottoressa Cerno. Sì, mi sembra di capire comunque che sono somme dovute ad Equitalia per interessi e forse anche aggi della riscossione, quindi in questo caso il reclamo diciamo non entra in discussione. Consiglierei all'ascoltatore comunque di recarsi, lo so che è antipatico, però di recarsi presso l'agente della riscossione, cercare un attimo di capire effettivamente a che titolo occorre pagare queste somme, se sono dovute comunque queste somme. Ricordo all'ascoltatore che comunque è possibile chiedere un'istanza di dilazione direttamente all'agente della riscossione senza alcuna presentazione di garanzie, ed Equitalia ormai fino ad un importo di 20.000 euro procederà a concedere la dilazione fino a 72 rate mensili di importo minimo pari a 100 euro mensili. Certo, a meno che con serenità si riconosca che è una somma dovuta, il problema è che Gino proprio contesta questo. Quindi bisognerebbe appunto però la prima cosa magari. Esatto, infatti. Detto questo, tra l'altro la dottoressa Cerno mi dà l'assist per poter anticipare ai nostri ascoltatori che noi volevamo anche questa settimana affrontare la questione della rateizzazione con il fisco, perché è un'opportunità che effettivamente alleggerisce molti pesi per molti contribuenti, soprattutto sappiamo quanto ce ne sia bisogno in questo momento in cui molte persone hanno difficoltà con il lavoro e magari devono sistemare delle pendenze vecchie, e quindi la rateizzazione come si fa e quali sono i presupposti per potersela far riconoscere. Quindi anticipo già che giovedì faremo questa trasmissione sperando di poterla mantenere, perché questa settimana avevamo in mente una sequenza di argomenti che già ci sono saltati, perché sono scoppiate le bollette in aumento. Come sapete, venerdì scorso l'autorità del gas e dell'energia ha appunto reso noto che nei prossimi mesi pagheremo molto, soprattutto per quello che riguarda l'energia, per cui abbiamo anche introdotto nella nostra settimana questo argomento, ce ne occuperemo mercoledì, e quindi insomma rateizzazione del fisco giovedì a Salvadanaio. Quante liti può tagliare la mediazione, Giovanni? Voi avete anche quantificato questa mattina sul Sole che beneficio complessivamente l'amministrazione fiscale può ricevere da questa novità. Allora, si tratta chiaramente di un calcolo su un potenziale, quindi insomma dovremo vedere poi nei fatti se effettivamente si avverassero le previsioni di stima delle agenzie delle entrate, che stima praticamente come liti mediabili 113.000, varrebbe dire che sul totale delle liti che entrano ogni anno in commissione tributaria, e quindi riguardano non solo l'agenzia delle entrate ma anche tutti gli altri enti impositori, tra cui anche Equitalia, 4 liti su 10 potrebbero essere tagliate. Stiamo parlando di un monte complessivo di cause in commissione tributaria che si aggira intorno ai 260.000. L'ultimo dato che pubblichiamo oggi su Sole 24 Ore è quello relativo alla fine del 2011. Quindi, di questo importo, naturalmente, dell'importo del quale parliamo questa mattina, voi avete quantificato questo. Esatto, esatto. E quindi potrebbero essere tagliate 4 liti su 10. È chiaro che sarebbe un contributo non da poco, perché le pendenze stanno crescendo nella giustizia tributaria di primo e secondo grado. Siamo arrivati a 740.000 fascicoli non evasi l'anno scorso, quindi è necessario in qualche modo intervenire con una procedura di abbattimento delle liti in ingresso, perché non c'è altra modalità per abbattere l'arretrato. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalla delega fiscale che il governo potrebbe approvare in questa settimana, che potrebbe intervenire con delle nuove procedure di conciliazione, magari estendendo questa, rendendola un po' più terza e poi facendo la conciliazione giudiziaria anche in secondo grado. Allora, poi ci manca anche da spiegare in che tempi una mediazione di questo tipo con il fisco appunto deve chiudersi. Sentiamo però intanto un altro caso, che è quello di Maurizio da Milano. Maurizio, buona giornata. Salve, buongiorno a tutti. Ci racconti. Dunque, il 20 dicembre del 2010 ricevevo una contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che sugli studi di settore, che secondo loro appunto dicevano che non ero congruo, non eravamo congrui e arriva diciamo questa prima lettera dicendo che non eravamo congrui per una cifra che adesso esattamente comunque era sotto i 20.000 euro. Noi facciamo la nostra diciamo lettera di adesione, il nostro primo ricorso e diciamo andiamo all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate appunto per partecipare a questa cosa qua abbiamo dovuto pagare le sanzioni e le somme aggiuntive. Nell'anno 2011 esce una circolare che dice che praticamente c'è questa specie di condono, mi faccio passare il termine se si può chiamare condono, per l'anno 2005 per chi non superava i 20.000 euro di sanzioni. A questo punto noi era inutile per noi fare ricorso in tributaria e poi eventualmente cioè in provinciale, in regionale, in provinciale e poi in tributaria e abbiamo deciso di pagare e partecipare a questa cosa. Però con questa circolare, secondo me, secondo loro, è arrivata a noi una lettera dicendo che non tenevano più conto delle somme che sono state versate e che comunque io dovevo pagare un'altra volta. Ah, azzeravano cioè, tutto così entro loro? Il 30 di marzo, senza nessun tipo di rateizzazione. Ora, io il venerdì 30 ho pagato e ho saldato quello che mi rimaneva, perché altrimenti poi mi sarei trovato una cartella settembre per intero e senza più neanche il condono. Però questi soldi qua praticamente io mi sono presentato là all'Agenzia delle Entrate e loro mi hanno detto che sono a fondo perso. Noi abbiamo un fondo perso. Maurizio, aspetti lì, vediamo se per poterle rispondere, anche se poi faccio fatica ad immaginare una relazione con l'argomento di questa mattina, però Giovanni. No, volevo solo chiedere una cosa all'ascoltatore, magari così poi la dottoressa Cerno ci può dare una specifica sul punto. Ma lei non ha presentato alcun tipo di ricorso? Sì, abbiamo presentato il primo ricorso in commissione regionale, penso. Okay. La prima, quella che si fa per primo è con adesione, per cui abbiamo deciso di pagare, perché appunto era uscito nell'agosto del 2011 la possibilità di ridurre questa sanzione. Esatto, e abbiamo pagato tutto quello che c'era da pagare. Allora adesso bisognerebbe capire se ormai la sua pendenza, come dire, sia chiusa o meno e che tipo di margini di riapertura si riaprono appunto con le nuove modalità di conclusione delle liti pendenti. So che voglio parlare Giovanni, però adesso abbiamo i suggerimenti perché è in viaggio. Aspetta lì, aspettiamo anche Maurizio, poi sentiremo anche la dottoressa Cerno. Giustamente Giovanni Parente mi suggeriva che sul tema delle controversie un po' datate c'è la quarta pagina della guida di questa mattina per le controversie aperte da domani, doppio binario, i fascicoli pendenti al termine del 2011. Volevi aggiungere qualcosa? Poi sento anche la consulenza tecnica della dottoressa Cerno, Giovanni, questo caso. Credo che lui si riferisse proprio a una lite chiusa perché era pendente entro la fine del 2011, ha pagato il 30 marzo, quindi era la scadenza oggi sarebbe la scadenza ultima, comunque ha pagato venerdì scorso. Adesso la lite però lui la contesta, cioè lui di fatto non la digerisce, da quello che capisco, no? Però ha pagato e quindi è stata un'ammissione di in qualche modo ha aderito alla sanatoria. Quindi da questo punto di vista lui deve aspettare la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che gli comunicherà appunto che la lite è sospesa e chiusa e quindi non deve più andare avanti in questo contenzioso. Non so, Rosanna Cerno, Che cosa suggerisce il caso di Maurizio che abbiamo appena ascoltato? Sì, io invece penso che l'ascoltatore si riferisse alla definizione agevolata delle sanzioni, mi spiego meglio. Cioè l'ascoltatore ha presentato il ricorso comunque in commissione tributaria provinciale, ma come possiamo fare tutti noi e ancora oggi lo possiamo fare, possiamo decidere di definire in maniera agevolata le sanzioni, come dire ricorriamo solo sulla maggiore imposta, ma le sanzioni le paghiamo in misura ridotta pari ad un terzo. In questo caso chi fa questo, anche se in commissione tributaria avremo ragione, ovvero decideremo poi di conciliare, quindi di metterci d'accordo, comunque una volta che abbiamo definito in maniera agevolata le sanzioni, questo importo non potrà essere più restituito, okay. Quindi viene cristallizzato. Quindi in questo caso l'ufficio, se è così, se è come penso io che l'ascoltatore ha fatto questa definizione agevolata, obiettivamente l'ufficio ha ragione, perché è la legge che prevede questo, cioè chi fa definizione agevolata delle sanzioni non avrà più diritto alla restituzione delle sanzioni, anche se poi avrà ragione in un secondo momento. Sentiamo invece Luca da Lecco. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, volevo dire la mia storia. Ho avuto un accertamento nell'anno 2010 da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2007. Io ho una società di vending, distributori automatici, sì. Dove hanno dichiarato che andando a prendere il prezzo di un mio cliente marginale, che il prezzo è molto più alto sicuramente della media, dicendo che io ho evaso 50.000 euro. Ho dichiarato che vendevo con dei prezzi molto più bassi, mi hanno chiesto di documentarlo, ho portato i contratti dei clienti grossi dove c'erano i prezzi che dicevo io di aver dichiarato. A quel punto mi hanno detto che non valeva più i contratti, siccome non erano registrati, non avevano nessun valore. Anche hanno cominciato a contrattare tipo il mercato, ecco, facciamo anziché 50, lo facciamo 24. Dopo siamo fino ad arrivare a una cifra di 14.000 euro senza niente in mano di scritto dove possono dire che io ho evaso certe cifre. Come si è chiusa, Luca? A che punto è di questa storia? Si è chiusa che devo pagare in tre rate la cifra che mi ha detto il commercialista, mi ha detto di andare avanti, non ne vale la pena, però mi sono sentito... Mi faccio capire qual era la richiesta iniziale e a quanto è arrivato a... Da 55 siamo arrivati a 14, però così è un mercanteggiare senza niente in mano che potevano dimostrare la mia evasione o qualcosa del genere, quindi mi sono sentito derubato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, Luca, lo posso anche capire, qua ci vorrebbe veramente Oscar Giannino, che stamattina che ne avrebbe poi due da chiedere sul qualche volta quello che abbiamo la sensazione sia un vero e proprio abuso da parte dell'amministrazione fiscale, perché oggettivamente, Giovanni, se ti richiede 50.000 euro poi arrivano a negoziare e si accontentano di 14, voglio dire, altri se si incaponissero perché ritengono di aver ragione, vogliono 50.000 punto e basta. Sì, non dovresti abbassare così di tanto la pretesa a questo punto. Va bene, non possiamo dire altro, però dottoressa Cerno, che cosa ne pensa di quanti ne vedi di casi di questo tipo che le passano sotto gli occhi? Però devo essere sincera, dipende dai casi, sarà che faccio questo mestiere, io consiglio sempre di andare avanti in questo caso e quindi di fare ricorso. Capisco che poi il contribuente è un po' così demoralizzato perché c'è anche la parcella da pagare al professionista, però se si pensa di aver ragione, cioè comunque il caso di andare avanti in questo caso. Come risolvo io di solito questi casi? Cerco comunque di chiedere all'ufficio l'applicazione o dello studio di settore o comunque quando si fa ricorso si chiede appunto la prova dell'evasione. Voglio dire, l'ufficio ha la possibilità di fare indagini finanziarie per vedere questi 50.000 euro in più dove sono stati messi, cioè che fine hanno fatto, perché se tu mi stai chiedendo 50.000 euro in più vuol dire che io ho fatto del nero, questi soldi da qualche parte li ho messi, allora scopri tu dove li ho messi, vanni a vedere i miei conti correnti oppure fammi un accesso e vedimi che ho una contabilità non ufficiale. Certo, non è che mi puoi contestare 50.000 euro, senza documentarlo. Esatto, se non ci sono queste prove allora io vado avanti e dico che ho ragione, perché non necessariamente io mi devo adeguare allo studio di settore. Nello stesso tempo ricordiamo anche una cosa che è vero, purtroppo accade negli uffici, anche se gli uffici non lo vogliono ammettere, questo mercanteggiare in sede di adesione, ma io ricordo sempre che l'imposta è indisponibile, cioè il funzionario, giustamente come ha detto lei, non può decidere se abbattere o non abbattere l'imposta, perché se è dovuta, che quella contestata è dovuta e basta. Se me l'abbattono è perché ci sono elementi a supporto diciamo di questo abbattimento. Poi capisco la disponibilità alla rateizzazione, ma da 50.000 che diventano 14.000, cioè, possiamo capire bene che è un po' l'ombra del sospetto. No. È giustificata. Allora, poi giustamente Alberto dalla provincia di Varese contesta invece un'altra cosa a Salva Danai, cioè che non abbiamo spiegato il meccanismo della conciliazione. Adesso ci dedichiamo a questo tema. Alberto, grazie alla sua domanda, gli ultimi 3 minuti che ci rimangono. Buongiorno. No, io ho fatto il corso di mediatore, però sì, sono mediatore, purtroppo è capitato una disgrazia, è capitato anche a me. No, perché? Ascolti, il mio problema, voglio capire, chi il mediatore, chi lo o non c'è la mediazione fra le due parti, o c'è una terza parte che fa da mediatore? Qui non è prevista. Questa terza parte chi la sceglie? Non è prevista in questa mediazione con il fisco la figura del super partes, Alberto, un po' particolare questa mediazione. L'ABC, Giovanni Parente. È un ufficio diverso da quello che ha emesso la contestazione a fare da mediatore, è l'ufficio legale della porta accanto. Allora, che non sia mai, domani mi arriva una bella cartella esattoriale dove il fisco mi attribuisce la responsabilità di non aver versato tributi per 12.000 euro, no? Io contesto questa posizione, che cosa faccio per arrivare ad una mediazione? Contesto relativamente, sì, dico sì. Senti un po', sai che faccio? Ci provo, medio, così magari abbatto questo importo. Che cosa faccio? In che tempi l'Agenzia delle Entrate mi deve dare una risposta se accetta quello che propongo io? Dall'istanza, cioè dal momento in cui tu la presenti, l'ufficio deve pronunciarsi entro 90 giorni, semplifichiamo, scarnifichiamo sostanzialmente il tutto. Nel momento in cui l'istanza di adesione è accolta, c'è la possibilità di uno sconto anche del 40% delle sanzioni. Nel momento in cui invece non venisse accolta, a quel punto l'ufficio comunque comunica al contribuente che non ha accolto l'istanza di mediazione e dentro i 30 giorni il contribuente, se 30 giorni successivi, si può costituire in giudizio e quindi si apre la fase del contenzioso vero e proprio in commissione tributaria, così come avveniva. Ha dei costi questa mediazione? Il contribuente che l'attiva deve sostenere qualche spesa? No, a parte le spese di assistenza del proprio professionista, che insomma, da solo non può fare? Oltre 2.582 vecchio, 5 milioni sostanzialmente no, però poi nel momento in cui si presenta in commissione tributaria è chiaro che a quel punto sarà dovuto il contributo unificato che viene applicato dallo scorso 7 luglio. Esatto, di che cifre ce lo ricordiamo? Le cifre sono variabili a seconda del valore della lite. Benissimo. Dottoressa Cerno, io devo andare alla nostra pillola IMSS fra 50 secondi. Un'ultima raccomandazione per utilizzare al meglio questo nuovo istituto che abbiamo a disposizione come contribuenti? Ma guardi, innanzitutto occorre fare bene questa istanza di reclamo, cioè chiedere innanzitutto l'annullamento dell'atto e quindi reclamare appunto. Io suggerirei comunque di limitare i casi in cui fare una proposta di mediazione, cioè innanzitutto chiedere la nullità dell'atto, ricordandosi che appunto che quell'istanza diventerà poi eventualmente un vero e proprio ricorso, quindi comportarsi come ci si comportava finora facendo un vero e proprio ricorso a tutti gli effetti, e ricordarsi ancora, questa forse è una cosa importante, di presentare un'istanza di sospensiva in via amministrativa, cioè per cercare di bloccare l'esecutività dell'atto che comunque procede, quindi evitare azioni da parte di Equitalia, presentare insieme al reclamo anche un'istanza di sospensiva, chiedendo cioè all'ufficio di sospendere appunto le eventuali azioni cautelari da parte di Equitalia. Infatti sappi che io ho attivato la procedura della mediazione, quindi da qui in avanti insomma non pretendere altro. Benissimo. Adesso arriviamo puntuali all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con IMSS, pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Il tema di questa nuova settimana sono le novità che riguardano le pensioni di vecchiaia. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Alcune delle più significative innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la pensione di vecchiaia. Quali sono le principali novità per questo tipo di pensione? Per aver diritto alla pensione di vecchiaia bisogna aver raggiunto una certa età, la cosiddetta età pensionabile, e aver maturato una determinata anzianità contributiva. Dal 1 gennaio 2012, secondo le nuove regole, occorre aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età anagrafica, che sono di 66 anni per tutti gli uomini e per le donne dipendenti del settore pubblico, di 62 anni per le donne dipendenti del settore privato e di 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome. Il calcolo della pensione, poi, è basato sul metodo contributivo per tutte le anzianità contributive maturate da quella data. Eccoci di nuovo in diretta, ma solamente per il tempo utile a salutarci. Grazie Giovanni Parente, alla prossima. Grazie. Vuoi tornare con noi giovedì per fare la rateizzazione del fisco? Ne parliamo. Benissimo, dopo ti invito ufficialmente a microfoni spenti. Grazie alla dottoressa Cerno per essere grazie stata con noi. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Oggi stranamente sono riuscita a ringraziare tutti. A domani.